La Serra Spiga Production, in collaborazione con la Casa Circondariale di Cosenza e la Terza T di Paola, e chiude vicende che tiene sempre la Mazda e passa sempre per una cazzo di Ferrari, presentano la classe, lo charme, lo stile di due cosentini doc, Giovanni da Riforma e Nicola do Crocifisso. Giovanni e Nicola, dopo le loro disavventure sulla nave da crociera, finalmente atterrano ad Ibiza, sempre alla ricerca di Maria Assunta, detta la Manuela Arcuri dei Giaggeri. Nico, ma de cazzo siamo finiti? Su pannisola! Si pare bezzo, non l'avevi sentito nominare, Giovanni! Come no? A venire una giornata la zona industriale a diesel, con circa il lega a 12.000 euro, e noi siamo venuti fino a qua! Giovanni, minchia come si è acculturato proprio per niente! E poi, lo sa perché siamo qua? E come no? Perché era smangiata Maria Assunta, ma l'hai visto con guaglione che hanno spanzato? Ma almeno usate a da me. Al ristorante il puerto. Il puerco. Il puerto, ma sei sordo. Chieda a suo signore più piacere che avete fatto due cazzate. Oh, scusami, ma te si trova il puerto? E se li muerti tua? Ha detto qualche te puerto. Ho trovato solo, Giovanni, volete. Dopo un lungo girovagare, i nostri eroi trovano il ristorante Il Puerto, dove ad un tavolo ci sono Maria Assunta e Maruzzu Hulk Hogan. Nico, sono là! Ma voglio vedere come fa. Aspetta, mo aspetto che Maruzzu va a rubagno e offre qui, mo ci peglio io una cosa. Cucci, vieni qua, cucci, per un caso, per una cosa. Tu cosa volete? Volete accendino, rosa? Sì, una poche bamboglia, no, mi serve una rosa, va fa culo. Rosa 7 euro, combà. Io era, e cosa con l'oro, 7 euro, va fa culo. Ma adesso, ero gesso un attimo, so se che mi hanno fatto una chiette culo che per la miseria. Aspetta, gioco un po'. Ieri, ti ne ha mangiato 44, sai che poi ti fanno male. Ma adesso, questo fiore è per te, io te amo. E ora sei venuto fino a qua con una rosa, ma mi vuoi dire che mi ami? E vieni a non vedere la stazione di Vagliolese, sei rosa. Ma un culo a te, se te vuoi pagare, se te... Maro! Oh, e ora ancora giù che è venuto visto, ma ti faccio vivere, ma io non lo so, su Cristiano. Ma guarda, mi riesca, fuori lui. Giovanni e Nicola torneranno settimana prossima, salvo Vittorio Camposanto. Vi ricordo che da Felicetta ogni due prestazioni in omaggio una copia del DVD di Giovanni e Nicola.